Mi chiamo Lambertini e lavoro in questa zona dal 1983. Abito in questa zona dal 1967. Una volta questa strada era una strada di artigiani. Qui tu trovavi il macellaio, certo, ma anche il pellettiere qui di fianco, due cartolerie, tre elettricisti, due fontanieri, quattro falegnami. Ognuno aveva la sua bottega e ognuno a fine serata andava a casa perché abitava in via Petroni. Quindi vivevi e lavoravi nella stessa strada. Quindi avevi un occhio di riguardo in più per quel che riguarda il decoro della strada, per quel che riguarda come viene tenuta la strada, eccetera, eccetera. Adesso non è più così. Adesso ci sono io che abito qui e lavoro qui. Tutti gli altri, è gente che viene qui alle 8 della mattina, sta qui a lavorare anche fino alle 8 di sera, però va da un'altra parte. Quindi quello che succede nella strada, come è tenuta la strada, non gliene frega niente. Non c'è più un artigiano, non c'è più un falegname, non c'è più un elettricista, non c'è più un fontaniere, non c'è più niente. Ci sono soltanto dei bar che vendono miscite di alcol. Basta. Quindi è cambiata, sì, la faccenda. Una volta qui c'erano due bar, adesso dove c'è lì adesso l'Abanero, c'era un bar che si chiama Bar GP, Giuseppe Petroni. E lì la gente che lavorava e che non andava in casa perché, essendo artigiani, avevano un laboratorio, dovevano uscire a fare degli interventi in altre case, eccetera, eccetera, dopo aver mangiato si trovavano lì e per un'ora fino alle tre tu trovavi tutti gli artigiani che erano seduti lì a farsi il 3-7 o la briscola. Adesso non c'è più. Quindi le cose sono cambiate. Beh, è cambiata l'educazione. È anche cambiata l'educazione. I ragazzi che vengono fuori sede, gli studenti fuori sede, vengono qui e sono da soli. È come i vitelli che gli dai la molla all'improvviso. Il vitello, appena lo lasci andare, questo corre finché non gli scoppi il cuore. Allora cosa fa l'allevatore bravo? Ci mette un recinto attorno, questo corre in tondo, quando si stanca dice sono sempre qua, si ferma. Cioè, qui è la stessa cosa. Bim bum bam. Poi ci sono quelli che col bim bum bam danno il busso finale, ci sono quelli che tornano indietro, ci sono quelli che si fermano a metà, però è così, un problema di educazione, un'educazione che deve venire da, non da me, e anche neanche dal vigile o dal carabiniere o dalla polizia, deve venire dalla famiglia. La famiglia dà l'assegnino mensile, con questi se non è abbastanza vanno a fare i baristi e i camerieri, per avere due soldi in più, ma sono discorsi da vecchio questi. Tutto qua.